l'amor nell'amore del Signore. Io ti amo nell'amore del Signore, perché vedo in te la gioia del mio re. Io ti amo nell'amore del Signore. Ti saluto nell'amore del Signore. Ti saluto nell'amore del Signore, perché vedo in te la gioia del mio re. Ti saluto nell'amore del Signore. Benvenuto nell'amore del Signore. Benvenuto nell'amore del Signore, perché vedo in te la gioia del mio re. Benvenuto nell'amore del Signore. Io ti amo nell'amore del Signore. Io ti amo nell'amore del Signore, perché vedo in te la gioia.